Siamo con l'attore Marcello Fonte che è poco meno di una settimana dopo la Palma d'Oro a Cannes come miglior attore, ha debuttato oggi in scena con la compagnia Forte Apache. Ciao, benvenuto. Buongiorno, con chi parlo? Chi è? Sono Federico, quello di prima. Di prima, di Radio Onda Rossa. Esattamente, ciao Ah, sei tu? Marcello. Ok. Bene, bravi, grande Onda Rossa, grande, bravi. Senti Marcello, come dicevamo prima, poco meno di una settimana fa la Palma d'Oro, stamattina il debutto a teatro, come ti senti? E come sento? Non lo so manco io come sento. Sono pieno di energia che esce fuori dai pori, da tutte le parti. Abbiamo sfondato il palco oggi, proprio. Siamo riusciti a tenere seduti nelle sedie per un'ora e 40 dei ragazzi liceali, che sono il pubblico quello vero, che è quello che quando si scoccia si alza e se vanno a fanculo. È proprio un pubblico vero. Se tieni loro seduti per un'ora e 40, forse che qualche cosa fai? Eh sì, eh sì. Insomma. Facciamo un passo indietro, cominciamo da Dogman. Se io ti chiedessi, Marcello, come me lo racconteresti? Amore, come lo racconterei? È una storia meravigliosa, bellissima. Mi sono proprio immerso a tutti gli effetti, nel senso che ho fatto proprio l'immersione anche, che non sapevo farle, non le ho fatte mai in vita mia. Quindi ho dovuto pure imparare a andare sott'acqua. È stata una bella prova. E non solo io, ma anche mia figlia, Alida, che cioè, già io già ho un'età, ho 40 anni, l'ho fatta a 40 anni. Lei ha fatto molto prima, quindi è più avanti proprio. Senti, com'era cominciato tutto? Come sei entrato nel film? Come sei entrato nel film? Con un cellulare, così come stiamo facendo noi, ormai la tecnologia è avanti. Una volta servivano le telecamere, le cose, per fare i provini, le cose. E invece è bastato un cellulare per fare le prove, per capire se ero giusto, se non ero giusto. È bastato un cellulare, uno spazio di 4 metri quadri. E il film è stato fatto lì, è stato costruito lì con la mente. E poi si è, come dire, smussato nel luogo. Quindi, insomma, è questo, è un lavoro di artigianato puro, senza, è un quadro, a tutti gli effetti, abbiamo colorato insieme, abbiamo tirato le prime linee, deciso i colori, poi la libertà che ci ha dato Matteo. A tutti gli attori, Edoardo Pesce, che se non era anche per lui l'amaro, no? Se non c'è l'amaro non puoi sentire il dolce, quindi diciamo quando c'è mia figlia Lida c'è il sole che ci illumina. E invece quando c'è sta Edoardo Pesce, Simoncino, c'è sta la pioggia, c'è il temporale, l'oscurità, i lati bui. Insomma, è un personaggio abbastanza complesso e molto dolce anche. Sì. Ecco, tanto di cappello a Matteo che ha centrato il film su di te e ha saputo anche valorizzare la tua umanità, la tua espressività. Ecco, come avete lavorato insieme alla costruzione del personaggio, Marcello? Molto, molto l'ha migliorato, non solo la personalità, tutto quanto, mi ha smussato un sacco di difetti, come dicevano lì, aveva un diamante grezzo e l'ha reso un diamante luminoso. No, è vero, perché comunque sono arrivato lì, che sai, un po' uno va con la cosa, però sono andato in ascolto. Mi ha valorizzato come persona, perché di solito ti prendono come sei, usano quello che hai e basta, invece lui proprio, devo dire la verità, mi ha migliorato come persona, cioè mi sono sistemato pure, insomma, i denti, tante cose che non fanno tutti, che devo dire, cioè, poche persone nella vita ti migliorano così, grazie a lui che mi ha riconosciuto come attore. Professionista dopo tanto tempo, le altre persone mi avevano usato sempre come una comparsa, dovevo elemosinare un piccolo ruolo. Invece trovare una persona che si fida di te e che ha il coraggio pure di rischiare, non è poco. E poi che si dimostra più umana degli altri, cioè nel senso di rispetto a tanti altri che magari iniziano e si sentono già professori, E invece mi ha insegnato tanto proprio a livello personale, oltre al film, dico. Oltre al film, proprio a livello quello che ti può dare una persona. Mi ha dato tanto. Fare questo personaggio, che emozione ti ha dato, Marcello? Ma è stato tutto là dentro, cioè abbiamo vissuto insieme, abbiamo danzato con lui, con la camera, poi è un film molto fisico, molto di sudore vero, non ci sono degli stuntmen. Lui dice un po' alla Buster Keaton, il mio Buster Keaton, il mio Maradona. Eravamo con un gruppo di una squadra di calcio, lui era il mister. Quindi questo personaggio si chiama Addentrati dentro le circostanze date. E l'abbiamo vissute, lasciando aperto tutto, cioè che fino alla fine poteva cambiare tutto, cioè si sapeva che morivi, campavi, cioè. E quindi non abbiamo chiuso la storia, ma l'abbiamo lasciata aperta alle emozioni che venivano, ogni ciak era unico, cercavamo l'autenticità della scena, lui vuole vedere l'autenticità perché è più spettatore e quindi vuole stupirsi anche lui, non vuole la stessa cosa sempre. Cerca sempre di emozionarsi, trovare cose nuove. Infatti è proprio questo che ha dato è come incontrarsi dopo tanto tempo con una persona che dovevi incontrare. Come Benigni anche. Lì era come una parentesi da lontano, che non lo so, che è come un vedersi però che già ti dovevi vedere, che non so. Di essere anche premiato da lui. E non è stato poco, mia mamma stava rischiando che la perdevo stavolta, veramente. Che gli veniva l'infarto, stavolta veramente me la lasciavo. Dio. Che comunque che lei proprio lo ama. E niente. Che ti devo dire? È così, bisogna credere nei sogni. Poi Valentina pure, no? Questo fatto che ha colpito molte persone, che le cose che succedono per caso, il caso nella tua vita, che ti porta a tante cose, insomma, se non ero con la compagnia di Valentina, con Forza Pace, tutto ciò non sarebbe successo. Quindi, come dire, le cose avvengono e niente. Sei? Sì, immagino che ti stiano arrivando proposte su proposte adesso. Guarda, c'è il cellulare che non lo uso più, infatti stai chiamando in quello di Valentina. Perché stava a scoppiare. Stava a scoppiare, se tutto è diventato un vibratore. Senti, però l'altra tua grande passione è il teatro, non a caso oggi questo Siamo debutto. qua, infatti, guarda come senti, ti faccio sentire un attimo una cosa. Ragazzi, vi faccio sentire un attimo che tutti Marcello, quindi un'altra grande famiglia, oltre a quella del cinema, c'è il teatro. sì, e questo è teatro, questo è teatro. Questo è teatro. Ci si diverte, è il cinema, ogni strumento è uno strumento e va usato in tutti i modi possibili e immaginabili per fare del bene, costruire valore e valorizzare quello che si ha. Ecco, ci racconti anche del tuo incontro con la compagnia Fortapass? Che cosa? Il tuo incontro con la compagnia Fortapass, com'è nato? E com'è nato, lo sai benissimo. Stavamo lì, lo sai che seguo tutte le cose del cinema palazzo con la macchinetta. La videocamerina piccola, che non voglio dire il nome, non voglio fare pubblicità, no? E quindi seguo tutte le compagnie, là, è arrivata questa signorina così bella, candida, che veniva da Re Bibbia con questi signori, le ex detenuti allora, dichiarati così, che venivano da Re Bibbia nel reinserimento sociale attraverso il teatro e li seguivo, quindi l'ho seguita dall'inizio proprio che sono venuti al Cinema Palazzo, al nuovo Cinema Palazzo. E niente, purtroppo è capitato questa cosa, dico purtroppo perché non è che è bello. C'è questo signore, Ruggero, che ci teneva tantissimo a questo spettacolo che stavano preparando loro, che era Tempo Binario. Io stavo sopra quel giorno, stavamo facendo un'altra cosa con Alessandra Cutolo e con Silvia Gallerano, un altro spettacolo, stavamo registrando. A un certo punto sentiamo dire che è rimasto uno in bagno, non si capiva perché era successo. Pensano che sentiva male. E invece no, è andato via, è rimasto lì, non è tornato dal bagno e gli è venuto un aneurisma. E siccome ci teneva tanto a Tempo Binario, allora abbiamo fatto in modo che questo spettacolo fosse dedicato a lui e ho sostituito Ruggero. E da lì è partito tutto. È partito tutto. Sono rimasto con loro. E poi un Garrone c'era uno dei tuoi aiutanti che seguiva un po' di spettacoli, di cercavastoli, e quindi ha visto anche la compagnia che adesso si chiama Porta Pace Teatro, e sono attori professionisti comunque, non solo ex detenuti, ma gli ex detenuti sono diventati attori a tutti gli effetti e sono professionisti garantiti. E quindi si sono anche riconosciuti attraverso il teatro e hanno un lavoro adesso, perché non è facile uscire dalla galera e ritrovarsi di nuovo nella vita. Alcune volte ti ci perdi nella tua città stessa. Sì, sì, sì. E insomma, esperienza di tanti anni. Sì. Valentina comunque ha fatto pure Ombre della Sera, tutto un percorso, ha raccontato sempre queste, insomma, le vite un po', anche perché il teatro ti tira fuori l'animo. Sì, sì. Dovrebbe fare anche nelle scuole, perché ti aiuta dentro e salva le persone. E quindi questo. Bene. Ci hanno visto e da lì è partito tutto. Sì, sì, sì. È partito tutto. Marcello, io ti ringrazio. Anche a Dogman. Sì. Dallo Porcacchia, che qua è un fenomenone a teatro, fa un bucio di culo così a me. Sì, bisogna dirlo. Ok. Edoardo Pesce ha fatto un bel lavoro, eh? Sì. Insomma, ti passo Valentina. Marcello, un abbraccio, ci si vede presto. Un saluto a tutti, ragazzi. Oh. Ciao Marcello. Ciao.